Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 9 Mirabil conversione di Saulo persecutore. Il Signore apparisce a lui per viaggio, ed è mandato a lui Anania, e battezzato principia a sostenere arditamente in Damasco, che Gesù è il Cristo. I discepoli per timor delle insidie dei giudei lo calano dalle mura. In Gerusalemme Barnaba lo mina agli apostoli. Essendo lì quivi tese insidie, egli è mandato a Tarso. Pietro in Lidda risana Enea paralitico, e in Gioppe risuscita Tabita. Ma Saulo tuttora spirante minacce, e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al principe dei sacerdoti. E gli domandò lettere per Damasco alle sinagoghe, a fine di menar legati a Gerusalemme quanti avesse trovati di quella professione, uomini e donne. E nell'andare successe, che avvicinandosi egli a Damasco, di repente una luce del cielo gli folgoreggiò d'intorno. E caduto per terra udì una voce, che gli disse, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli rispose, «Chi sei tu, Signore?» Ed egli, «Io sono Gesù, cui tu perseguiti, dura cosa è per te il ricalcitrare contro il pungolo?» Ed egli tremante, e attonito, disse, «Signore che vuoi tu, ch'io faccia?» Ed il Signore a lui, «Levati su, ed entra in città, e ivi ti sarà detto quel, che tu debba fare». E quei, che le accompagnavano, se ne stavano stupefatti, udendo la voce, ma non vedendo alcuno. E Saulo si alzò da terra, e avendo gli occhi aperti, non vedeva niente. Ma menandolo a mano, lo condussero in Damasco. E quivi 3 giorni stette senza vedere, e non mangiò, né bevve. Ed era in Damasco un certo discepolo per nome Anania, cui in visione il Signore disse, «Anania». Ed egli rispose, «Eccomi, Signore». E il Signore a lui, «Alzati, e va nella contrada chiamata la diritta, e cerca in casa di Giuda uno di Tarso, che si chiama Saulo, impero che egli già fa orazione». E Anania rispose, «Signore, da molti ho sentito dir di quest'uomo, quanti mali abbia fatti a tuoi santi in Gerusalemme, e qui egli ha autorità da principi dei sacerdoti di legare tutti quelli, che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse, «Va che costui è uno strumento eletto da me a portare il nome mio dinanzi alle genti, e ai re, e a figliuoli di Israele. Impero che io gli farò vedere, quanto debba egli patire per il nome mio». Andò Anania, ed entrò nella casa, e impostegli le mani, disse, «Fratello Saulo, mi ha mandato il Signore Gesù, che ti appari nella strada, per cui venivi, affinché recuperi la vista, e sii ripieno di Spirito Santo». E subito caddero dagli occhi di lui certe come scaglie, o recuperò la vista, e alzatosi fu battezzato. E cibatosi ripigliò le forze. E li stette alcuni di coi discepoli, che erano a Damasco. E immediatamente nelle sinagoghe predicava Gesù, dicendo, «Questi è il figliuolo di Dio». E restavano stupefatti tutti che l'udivano, e dicevano, «Non è egli colui, che in Gerusalemme dispergeva quelli, che invocano questo nome, ed ecco avvenuto a questo fine di condurli legati ai principi dei sacerdoti?» Ma Saulo sempre più si faceva forte, e confondeva i giudei abitanti in Damasco, dimostrando, che quello, è il Cristo. Passato poi lungo spazio di tempo, fecero risoluzione gli ebrei di ucciderlo. E Saulo riseppe le loro insidie. Ed egli non faceva guardia alle porte di, e notte per ammazzarlo. Ma i discepoli lo preser di notte tempo, e lo miser giù dalla muraglia, calandolo in una sporta. Ed essendo egli andato a Gerusalemme, cercava di unirsi con i discepoli, ma tutti avevan paura di lui, non credendo, che egli fosse discepolo. Ma Barnaba preso lo seco lo menò agli apostoli, ed espose loro, come egli avesse veduto per istrada il Signore, il quale gli avea parlato, e come in Damasco predicato avesse con libertà nel nome di Gesù. E andava, e stava con essi in Gerusalemme, predicando liberamente nel nome del Signore. E parlava anche coi gentili, e disputava coi greci, ma quelli cercavano d'ucciderlo. Lo che risaputosi da fratelli, lo accompagnarono a Cesarea, e indi lo inviarono a Tarso. La chiesa dunque per tutta la Giudea, e Galilea, e Samaria avendo pace, si edificava, e camminava nel timor del Signore, ed era ricolma della consolazione dello Spirito Santo. Ora venne, che Pietro visitandole tutte, giunse ai santi, che abitavano in Lidda. Ed ivi trovò un uomo per nome Enea, che da 8 anni giaceva in letto, essendo paralitico. Cui disse Pietro, Enea, ti risana il Signor Gesù Cristo, levati su, e aggiustati il letto. E quegli subito si rizzò. E lo videro tutti gli abitatori di Lidda, e della Sarona, i quali si convertirono al Signore. In Gioppe poi vi era una certa discepola, per nome Tabita, che interpretato vuol dir Dorcade. Ella era piena di buone opere, e di limosine, che faceva. Ed avvenne, che in che di ammalatasi mori. E lavata che l'ebbero, la posero nel cenacolo. Ed essendo lì da vicino a Gioppe, i discepoli avendo sentito, che quivi Pietro si ritrovava, gli mandarono 2 uomini, che lo pregassero, non ti paia greve di venir sino a noi. E Pietro si alzò, e andò con essi. E arrivalo che fu lo condussero al cenacolo, e gli furono intorno tutte le vedove piangenti, le quali gli mostravano le tonache, e le vesti, che Dorcade faceva per esse. Ma Pietro, fatti uscir tutti fuora, piegate le ginocchia orò, e rivoltosi al corpo, disse, Tabita, levati su. Ed ella aprì i suoi occhi, e veduto che ebbe Pietro, si mise a sedere. E da tale mano la fece alzare. E chiamati i santi, e le vedove la presentò loro viva. E si seppe ciò per tutta Gioppe, e molti credettero nel Signore. E ne avvenne, che si fermò molti giorni in Gioppe in casa di un certo Simone cuoiaio. Note, 9,1, ma Saulo tuttora eci. Non contento della morte di Stefano, e degli altri, che diedero la vita per Gesù Cristo nella persecuzione mentovata di sopra, capitolo 8. I 9,2, gli domandò lettere eci. I Romani avean lasciato al Sinedrio la facoltà di fare imprigionare e battere i giudei non solo nella Palestina, ma anche negli altri paesi, dove erano sinagoghe, le quali sinagoghe in tutto ciò che riguardava la religione, rispettavano l'autorità del Sinedrio di Gerusalemme. I giudei erano in grandissimo numero a Damasco. A fini di menar legati a Gerusalemme eci. Quasi non fidandosi che le sinagoghe di Damasco li trattassero così rigorosamente, come gli desiderava, e come credeva, che meritassero. 9,3. Una luce del cielo li folgoreggiò d'intorno. Questo seguì sul mezzogiorno, Nilo che fa vedere, che questo splendore celeste fu straordinariamente grande, mentre superò la piena luce del sole. Questo splendore, simbolo della luce interiore, che doveva illuminare gli occhi della mente, e del cuore di Saulo, è simbolo ancora della luce di santità, e di dottrina, che doveva spargere per ogni parte, dopo la sua conversione. Questa luce secondo alcuni interpreti era tramandata dal corpo glorioso di Gesù Cristo che apparì a Saulo. 9,4. Saulo, Saulo. Questa doppia chiamata è indizio e della durezza del cuore di Saulo, e dell'amore, e della compassione di Cristo verso di lui. Perché mi perseguiti? Gesù Cristo, e la Chiesa sono un solo corpo, e perciò gli dice perché perseguiti me, cioè a dire me, che ti amo, e che tanto ho fatto e pordenone Tito per te? 9,5. Dura cosa è per te il ricalcitrare eci proverbio assai noto, che si dice di chi con la propria ostinazione offende se stesso. E un tal rimprovero quadrava in Saulo, il quale per odio contro il nome cristiano correva da cieco alla sua perdizione. 9,6. Signore, che vuoi tu, che io faccia? Queste parole dimostrano un animo già ammollito, che si abbandona in tutto, e per tutto alla volontà del Signore. 9,7. Udendo la voce, e ci udivano i compagni la voce di Saulo, ma senza sapere a chi egli indirizzasse le sue parole, e senza sapere, perché egli parlasse così, o in mentre di colui, col quale egli parlava, non udirò nessi la voce, come sia nel capo 22. 9,8. Non vedeva niente eci. Questo stato di Saulo, che ad occhi aperti non vede nulla, rappresentava quello che egli si era avanti la sua conversione. Compariva agli altrui sguardi come uomo zelante, erudito nella scienza della legge, ma non era infatti se non un cieco, che niente vedeva, né intendeva delle cose di Dio, e della religione. 9,9. E quivi tre giorni stette eci. In questi tre giorni, che egli passò nell'esercizio dell'orazione, e della penitenza, osservando un rigoroso digiuno, gli fu insegnato per immediata rivelazione da Gesù Cristo il Vangelo, il qual Vangelo cominciò immediatamente a predicare con tanto fervore. 9,10. Anania. Questa Anania era celebre tra i fedeli di Damasco. Non sappiamo di certo se egli fosse sacerdote o diacono, e molto meno se del numero dei 72 discepoli, come alcuni hanno detto. Vedi Act XXII, 12. Ed egli rispose, eccomi, eci dicendosi apertamente, che Gesù appari non in sogno, ma in visione ad Anania. La risposta che egli dà sembra dimostrare che riconobbe subito Gesù Cristo, e che non era nuovo per lui un tal favore. 9,11. Cerca in casa di Giuda e ci è credibile che Saulo avesse di lunga mano ospizio in casa di questo Giuda e che ivi fosse solito di abitare, quando andava a Damasco. Già fa orazione. Egli non è più quel persecutore che era prima. Non temere di lui, egli sta orando per impetrare misericordia e prepararsi al battesimo. 9,12. Anche queste parole sono del Signore, il quale con esse fa animo ad Anania, perché non tema di andare a trovar colui, che era prima un lupo rapace, ma è oramai divenuto un agnello della greggia del Signore, e amato e favorito da Dio con visioni ed estasi meravigliose. 9,14. E qui egli ha autorità dat principi dex sacerdoti eci. Dal Sinedrio, di cui questi erano parte principalissima. 9,15. Dinanzi alle genti eci delle quali si gloriava egli poi di essere apostolo specialmente mandato ad esse, come Pietro ac Giudei. Si allude qui a quel luogo di Isaia, capitolo 49. 6,9,17. E chi impostegli le mani, eci. Questa cerimonia non ebbe altro fine che di rendere a Saulo la vista. Recuperata la vista, Saulo fu battezzato e ricevé lo Spirito Santo, ed effetto del battesimo fu la pienezza dello stesso Spirito a lui conferita per formarlo in un tratto non sul perfetto cristiano, ma ferventissimo predicator del Vangelo. 9,18. Certe come scaglie, eci. Ossia, come squame di pesci, le quali coprendo semplicemente gli occhi, non avevano offeso l'organo della vista. 9,19. E si stette alcuni di coc discepoli, eci. Con i cristiani, dei quali non piccol numero dove essersi ritirato a Damasco nel bollore della persecuzione dopo la morte di Stefano. 9,23. Passato poi lungo spazio di tempo, eci. Comunemente si crede 3 anni dopo la sua conversione. Impero che dopo essere stato alcuni giorni coc discepoli, come si dice nel versetto 19. Se ne andò nell'Arabia, chi dice per predicarvi il Vangelo, e chi per prepararsi alla predicazione. Dall'Arabia tornò in Damasco, dove si fermò sino alla fine del terzo anno dopo la sua conversione, e allora gli accadde quello che si descrive in questo luogo. Vedi l'Epistola a Galati. 9,24. Facevan guardia alle porte e ci avevano essi in loro favore il re Areta, come si vede da quello che dice lo stesso Apostolo, 2 Corint. 11.32. 9,26. Avevan paura di lui, non credendo, eci. La distanza considerabile da Damasco a Gerusalemme, e i rumori della guerra, che si preparava tra Areta ed Erode, e finalmente la persecuzione non ancora calmata nella Giudea potevano essere causa che da Damasco non fosse ancora pervenuta a Gerusalemme la nuova della conversione di Saulo. 9,27. Ma Barnaba eci. Barnaba conosceva di lunga mano Saulo per essere stati, come dicesi, ambidue scolari di Gamaliele, e conoscendo il carattere di lui alieno dalla finzione e dalla menzogna, più facilmente che niun altro gli prestò fede. 9,29 E parlava anche coi gentili, e disputava coi greci aieci. Il Siro, e l'arabo, e anche gli antichi esemplari della versione latina leggono, come nel greco, e parlava anche, e disputava coi greci aieci. E quella giunta dei gentili non può star con la storia, perché non era ancora stata aperta ai gentili la porta del Vangelo, onde si crede intrusa quella parola da qualche ignorante copista. I greci poi sono i giudei forestieri in Gerusalemme, che non altra lingua parlavano, che la greca. Vedi Act 6, i. Ma quelli cercavano di ucciderlo. Gli ebrei, dei quali è parlato vers 23-24, erano quelli che volevano uccidere Saulo, come ben avvertì il Grisostomo. 9,30 Lo accompagnarono a Cesarea. Non si sa se qui si parli di Cesarea città marittima detta anche Torre di Siratone, o di Cesarea di Filippo vicina al Monte Libano. L'inviarono a Tarso, dove tra molti parenti e amici poteva essere meno esposto alle insidie degli ebrei, benché di questi ne fossero anche in Tarso. 9,31 La Chiesa, avendo pace, calmata già la persecuzione, si edificava, ici. La voce greca propriamente significa quello che si fa intorno a una casa, la quale dopo che si è fabbricata, si orna, e si abbellisce, e con questo s, Luca viene a significare, che le chiese, restituita la pace, si andavan perfezionando, ponendo gli apostoli le cose tutte in buon ordine, e aumentandosi ogni di il numero dei fedeli, e crescendo questi nella cognizione della verità, nella pietà, e nella mutua dilezione. 9,32 Pietro visitandole tutte. Intende le chiese fondate da discepoli sparsi per ogni parte nel tempo della persecuzione. Pietro come capo di tutta la chiesa va a visitarle, a fine di confermarle nella fede, di provvedere alle loro occorrenze, e soprattutto per ordinare dei pastori secondo il bisogno di ciascheduna. Giunse ai santi, che abitavano in Lida. Il nome di santi fu dato fino da che primi tempi a cristiani, perché chiamati alla santità, santificati nel battesimo, e viventi con una singolare purità di costumi. Lida, dice Giuseppe, Antic. 20,5, che era una terra poco inferiore a una città, ebbe di poi il nome di Diospoli, ed era poco più di 20 miglia lontana da Gerusalemme, non lungi dal mare Mediterraneo. 9,33 Un uomo per nome Enea. Benché il nome di quest'uomo sia greco, con tutto ciò egli era giudeo, perché molti giudei abitanti tra i greci avevano doppio nome, uno ebreo, l'altro greco, della qualcosa abbiamo altri esempi in questa storia. 9,34 Aggiustati il letto. In prova del vigore di sanità restituito alle tue membra. 9,35 Gli abitatori della Sarona. È questo un tratto di paese tra il monte Tabor e il lago di Tiberiade da Cesarea della Palestina sino a Gioppe. 9,36 Tabitn, che interpretato vuol dire Dorcade. S. Luca rende con la parola greca la significazione del nome siriaco. Dorcade vuol dir capra. Così Tommaso fu detto Didimo in greco, e Cefa fu detto Pietro. 9,37 E lavata che l'ebbero, eci. Questo rito di lavare i corpi dei defunti fu molto in uso presso tutte le nazioni, e passò anche tra cristiani, come racconta Tertulliano, Apologet. Capitolo 22 E può riguardarsi come un segno della comune speranza della futura risurrezione. La posero nel cenacolo. Nella parte superiore della casa, che era a guisa di terrazzo scoperto, come altrove si è detto. 9,39 Gli mostravano le tonache, e le vesti, ici. La tonaca è la veste interiore, la veste è il pallio, che erano i due vestimenti comuni in quei tempi all'uno, e all'altro sesso. 9,43 In casa di un certo Simone cuoiaio punto ossia conciatore di cuoia.